questo venerdì 27 aprile. Intanto già da una carrellata di titoli si può capire che il clima è sempre quello, è molto depressivo in Italia. Accidenti. Allora, Monti, crescita priorità europea, così titola il Sole 24 Ore, il piano di Bruxelles in 12 punti. Per il Corriere della Sera invece debito, declassata la Spagna, lo stesso identico titolo è l'apertura di Repubblica. Per la Stampa, tasse, i partiti avvertono Monti, il Messaggero, ora abbassare le tasse, che è l'avvertimento dei partiti, e anche il Secolo XIX, i partiti, Monti, giù le tasse. Per Libero, Monti ci spezza le reni per dar soldi alla Grecia. Regaliamo 35 miliardi. Il Fatto Quotidiano, milioni di pensionati a 500 euro, ma il governo aiuta i manager. E il titolo Mezza pensione è anche l'apertura dell'Unità sul tema appunto dei pensionati. Mentre le pensioni che l'Italia non si può permettere, poveri nonni, così apre anche il Manifesto. Caccia le spese inutili, invece il titolo di apertura di Avvenire, mentre il Giornale, chi ingrassa Grillo, il comico che fa paura, dunque una fenomenologia di Beppe Grillo. Avete capito, questo è il clima che ci attende se leggete i giornali. Io voglio iniziare da qualcosa di taglio diverso, se volete anche curioso. Prima una breve parentesi sugli aggiornamenti per il tema rimborsi elettorali. Visto che è un tema sul quale torneremo spesso, si torna, se ne parla, i partiti dovevano fare tutto in 3 giorni, in 3 giorni. Ora c'è l'accordo per dimezzare i rimborsi elettorali. Ovviamente siamo sempre nell'ambito delle promesse, cari italiani. Allora, il 14 maggio arriverà il testo in aula, ne parla Carlo Bertini a pagina 9 della Stampa. Il testo in aula, i relatori sono Bressa del Partito Democratico e Calderisi del Popolo della Libertà. Dovranno fare un testo che fonda i principi della legge ABC sulla trasparenza e controllo dei bilanci, quella che si è arenata e si è schiantata in Parlamento dopo 2 giorni. Dovranno fare un nuovo testo, l'obiettivo è quello di dimezzare da 180 milioni all'anno a 90 milioni di euro all'anno i rimborsi ai partiti. Per carità, gli italiani molti li avevano cancellati, la stragrande maggioranza con il referendum, sono rientrati. Non sono mai rimborsi perché i partiti incassano uno e spendono uno e incassano 10, più o meno. Però almeno li vogliono dimezzare, quindi adesso spenderanno uno e incasseranno 5, ma continuano a chiamarli rimborsi. Rimborso nel vocabolario italiano vuol dire che uno se spende uno prende uno, se spende 100 prende 100, ma tant'è. Speriamo che almeno si riescano a dimezzare, per la politica dei piccoli passi iniziamo così. Poi non fa sorridere, non dovrebbe fare sorridere, ma a me fa un po' sorridere. Napoli è la capitale mondiale dei soldi falsi, così titola pagina 19 il Giornale. Viene prodotta a Napoli, per la verità a Giugliano, la metà degli euro farlocchi in circolo nel mondo. I giotto della contraffazione sono tutti appunto di Giugliano. Così Cristiano Gatti sul Giornale, se n'è accorto anche l'International Herald Tribune, l'edizione mondiale del New York Times ha mandato un'inviata, Rachel Donadio, che è andata lì, ha riportato le dichiarazioni del colonnello Alessandro Gentili, carabiniere responsabile dell'unità antifalsificazione monetaria. Ma sentite cosa dice, io ridevo in maniera spassosa, anche se non si dovrebbe. È una tradizione antica e angusta, è una tradizione antica e augusta, così il colonnello Gentili, su quale? Quella di fabbricare gli euro falsi. Qui le banconote a Giugliano vengono confezionate molto bene. Giugliano ancora oggi vanta i migliori professionisti, anche perché come tutti sanno, in zona si tramandano questo sofisticato genere d'artigianato di padre in figlio. Cioè stiamo parlando di falsificare monete e ne stiamo, lo sta descrivendo come una tradizione non millenaria, perché ma decennale, centenaria forse, che si tramanda di padre in figlio. Qui ci sono gli artigiani più bravi del mondo. Orgoglio tricolore, infatti, scrive il giornale. Come le borsette, le scarpe, le cucine componibili, i vini, gli euro fatti a mano ci vengono invidiati in tutto il mondo. E in questi anni le autorità hanno scoperto laboratori anche in Francia, in Spagna, in Sud America, ultimamente in Lituania. Ma gli euro di Giuliano sono inimitabili, più degli originali. Certo, nemmeno questo comparto si salva dalle turbolenze e dalle difficoltà congiunturali. Cioè, che vuol dire, ogni tanto viene arrestato qualcuno. Però poi vengono rimessi in libertà e Giuliano alla fine sforna la metà degli euro falsi, soprattutto i migliori. Lo dimostra un semplice fatto: i grandi intenditori, cioè i capi delle boss delle mafie di mezzo mondo, scelgono la valuta di Giuliano per i loro traffici sulle grandi piazze internazionali. Oh, finalmente si può dire un po' di orgoglio italico in tutto il mondo. Cosa che invece non dovrebbe inorgoglire è il pasticcio errore. Il ministro della Salute Balduzzi l'ha definito un refuso, una dimenticanza. Sta di fatto che è successo un qualcosa di un po' strano che non è sfuggito alla LILA, la Lega Italiana per la Lotta all'AIDS. In Italia vengono distribuiti in questi giorni degli opuscoli per tutti i turisti, che i tifosi di calcio che vorranno andare tra un mese in Ucraina e in Polonia per gli europei di calcio. E solo che nella traduzione italiana è scomparsa dell'opuscolo, che è internazionale, quindi distribuito da tutte le federazioni di calcio, è scomparsa la parola preservativo in maniera un po' misteriosa. L'Italia censura il preservativo, così titola a pagina 11 il Secolo XIX, che mette la notizia in prima pagina. Il Ministero della Salute elimina la parola dal vademecum per Euro 2012. Cioè c'era scritto in questo opuscolo internazionale: per evitare il rischio di malattie sessualmente trasmissibili, assicurarsi di usare correttamente il preservativo femminile o maschile. Semplice, chiaro, lineare. Questa frase è dell'opuscolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, destinato a tutti i tifosi. Nella traduzione italiana però queste righe scompaiono. Appunto, il ministro della Salute parla di banale refuso. Sta di fatto che queste parole sull'uso del preservativo sono state tolte. Gaffe, refuso, prudenza, ignoranza, si può anche dire. Chi lo sa? Certo, la Lega Italiana per la Lotta all'AIDS ha voluto tirare fuori questa problematica. Già di recente c'era stata la polemica perché nella giornata mondiale contro l'AIDS era stata mandata, credo, una circolare all'interno della RAI per vietare l'uso del termine preservativo nelle trasmissioni. Sta di fatto che c'è questo nuovo piccolo giallo, anche per il Messaggero, europei di calcio, gaff del ministero, dall'opuscolo sparisce la parola condom. Eccoci allora, cerchiamo di tuffarci senza che ci venga un attacco depressivo nella lettura dei giornali che trovate in edicola. Allora si comincia a parlare di crescita, questo almeno è il secondo giorno che questa parola campeggia sui giornali, perché questa è la linea dettata dal premier Mario Monti ieri a Bruxelles. Sapete che Angela Merkel, che si trova un po' isolata, pensa di perdere la sponda in Sarkozy. In Olanda, storico alleato della Germania, è caduto il governo e dunque il rigore tedesco, il tradizionale rigore tedesco, ora vede delle aperture, degli spiragli di apertura da Angela Merkel, che cerca partner per rilanciare invece la crescita. Allora il governo Monti ieri a Bruxelles ha incoraggiato perché la crescita è ora ritenuta essenziale e prioritaria da paesi che insistevano meno di noi su questo tema, così ha detto Monti. E il commissario Barnier conferma che l'Unione Europea presenterà un piano con 12 misure a settembre. Viene anche quello che mi colpisce di questa frase è il settembre, insomma, fate pure con calma. Monti impegna l'Unione Europea sulla crescita, così è il titolo dell'articolo che trovate a pagina 3 di Beda Romano, con appunto l'intervento ieri a Bruxelles, e tra l'altro con l'approvazione invece da Camera e Senato del DEF, il documento Economia e Finanza, ecco che ancora si rilancia la priorità, la necessità di dare priorità alla crescita e soprattutto all'alleggerimento delle tasse. Tanto che i partiti incalzano Monti su questo, a dire ora è il momento di tagliare le tasse. Per il resto, se uno guarda la Spagna, Standard & Poor's l'ha declassata. E dunque declassato il rating del debito sovrano della Spagna è tagliato di 2 gradini da Standard & Poor's, da A a BBB+, una valutazione analoga a quella italiana. Dunque anche in Spagna non se la passano molto bene. Chi non se la passa bene sono i pensionati in Italia, non solo per la riforma delle pensioni, ma ieri l'Istat ha certificato con questo dato una fotografia abbastanza impietosa: quasi la metà delle pensioni in Italia sono sotto i 1.000 euro. È uno studio dell'Istat insieme all'INPS. Una fotografia decisamente in bianco e nero, racconta Claudio Tucci sul Sole 24 Ore a pagina 16. 2,4 milioni di pensionati ha ricevuto nel 2010 una o più pensioni di importo inferiore ai 500 euro. Per 5,2 milioni di persone, di pensionati, dunque il 31% del totale, le prestazioni sono oscillate tra i 500 e i 1000 euro. Il 23,5% ha portato invece a casa assegni tra i 1000 e i 1500 euro, mentre un pensionato su tre, il 31,1% per la precisione, ha ricevuto pensioni di importo totale superiore ai 1500 euro. Quasi la metà. Però questo è il dato più inquietante, sono sotto i 1000 euro. Su questo vi segnalo l'editoriale in prima pagina del Manifesto di Valentino Parlato. Miseria fa miseria, scrive Parlato sul Financial Times di ieri. Spiccava un titolo assai eloquente e tempestivo: Time to say basta to the nonsense of austerity, cioè tempo di dire basta. Ma quel basta era in corsivo, e scrive: parole sante, dice Parlato, sulle quali dovrebbero riflettere i nostri attuali governanti, che di tagli e austerità hanno fatto la loro bandiera. Vediamo come vanno le cose in Italia secondo la rilevazione dell'Istat e dell'INPS. Nel 2010 quasi la metà dei pensionati, 7,6 milioni, ha ricevuto pensioni per un importo medio mensile inferiore ai 1000 euro. Questa è la situazione in Italia, ma anche in Spagna, terribilmente in Grecia. Secondo l'Ocse ad Atene, i redditi nel 2011 sono diminuiti di ben il 25% rispetto al 2010. E poi più avanti scrive Parlato: certo, c'è il debito pubblico e i debiti si debbono pagare, c'è modo e modo però di pagarli, ed è forte il pericolo che queste imposizioni sul pagamento del debito blocchino la crescita e portino al tanto temuto default. Insomma, siamo in una situazione nella quale Monti dice no al keynesismo vecchio stile. Nel contempo l'altro Mario, Mario Draghi, dice giustamente che ci vuole subito un patto per la crescita. Troppe tasse creano recessione. Mio nonno, che non sapeva chi fosse Keynes, mi ripeteva: miseria fa crescere miseria. Parole sante, e aggiungo che il rigore tende ad avvicinarci al rigor mortis. Insomma, sarebbe ora di avere il coraggio di finirla con i miti rigoristici e suicidi. Così Valentino Parlato. Intanto si pensa sempre come tagliare, la spending review. Tagliare non è semplice, bisogna usare il termine spending review, che ripeto a me fa venire l'orticaria, però è il termine più utilizzato. Oggi anche il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, fa un'intervista al Sole 24 Ore, intervistato da Davide Colombo: per la spending review cloniamo il modello INPS. Non c'è niente sulla possibile spending review del suo stipendio, che mi risulta essere molto molto alto, del presidente dell'INPS. C'è invece tanti consigli su come fare appunto la spending review in Italia, e dice Mastrapasqua: si potrebbe imitare proprio l'INPS, che ha un bilancio che è 8 volte più grande della somma dei bilanci di tutte le ASL d'Italia, e noi abbiamo un solo ufficio paghe. Perché le ASL non possono unificare i loro? Noi abbiamo affidato con una gara europea a un call center la gestione dei nostri rapporti con gli utenti. Eravamo partiti insieme con INAI, ora si sono aggiunte INPDAP, EMPALS, Equitalia. C'è in corso una riflessione per aderire da parte dell'Agenzia delle Entrate. Insomma, per la spending review bisogna clonare il modello INPS, che è un modello di risparmio, così dice il suo presidente Antonio Mastrapasqua, intervistato dal Sole 24 Ore. Hanno tagliato anche le auto blu? Questa vicenda delle auto blu ieri è veramente implosa. Va da due giorni sui giornali, le polemiche, eccetera. Allora, è intervenuto il governo su questa vicenda delle auto blu. Per dire che non ci saranno acquisti di auto blu per il 2012. In realtà è un po' controversa questa questione. È come... c'è come la sensazione di... si può dire di una supercazzola che abbiano fatto nel dare una spiegazione su questa cosa delle auto blu. Allora, intanto rimango sul Sole 24 Ore, pagina 5. Nicoletta Cottone racconta: auto blu, un altro bando da 84 milioni per 4.350 vetture. Ma come? Cioè, si sta discutendo delle 400 auto blu che forse il governo vuole acquistare, eccetera. C'è un altro bando, intanto, da 4.350 vetture. Da 84 milioni di euro. Ma vabbè, Nicoletta Cottone racconta: dovevano calare per decreto, così è arrivato inaspettato questo nuovo bando di gara da 9,57 milioni di euro per acquistare 400 auto blu per la pubblica amministrazione. Ma ecco la spiegazione del governo. Io non è che l'ho capita molto, però Palazzo Chigi nel pomeriggio ha risposto con una nota precisando che il governo non acquisterà nuove auto blu nel 2012, auspicando che anche le amministrazioni territoriali non lo facciano. Ma il bando di gara, ha spiegato sempre Palazzo Chigi, non determina automaticamente l'acquisto di nuove autovetture, ma serve alla stipula di un accordo quadro che può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per soddisfare le necessità di spostamento nel territorio. Bah, non ho capito, le comprano o non le comprano? A questa domanda non è che c'è una risposta chiarissima. Più tardi il sottosegretario dell'economia Polillo ha precisato che la gara è stata indetta sul fabbisogno stimato per i prossimi anni. Cioè, traduce Nicoletta Cottone, può darsi che ci siano amministrazioni che non ne chiederanno e non ne faranno uno, ma può darsi che ci siano invece delle amministrazioni che le chiederanno. Quindi, se volete la risposta, io non l'ho capita tantissimo, ecco, se compreranno queste 400 auto blu o no. Certo, sta di fatto che è nato un nuovo bando, questa volta per il noleggio di auto, datato 18 aprile, termine di invio delle offerte il 14 giugno alle 16, 5 lotti per noleggiare, questa volta non comprare, ma noleggiare 4.350 veicoli da 1 a 7 anni, 2.750 vetture, 630 berline ad alimentazione tradizionale ed elettrica, 470 veicoli commerciali, 300 a GPL, 200 a metano. Bando, spesa prevista 84 milioni di euro. Ma... tanto che Libero titola pagina 8 così: altre 4.300 macchine, anzi 4.350 macchine per l'autosalone Monti. L'esecutivo firma un bando per noleggiare auto blu. Costo è quasi 85 milioni di euro. Mentre la Camera, scrive Tommaso Montesano, spende 810.000 euro per comprarsi delle ambulanze. E vabbè... dopo il traffico parleremo un po' di politica, cosa fanno i partiti e come reagiscono alle inchieste in corso. Allora, che fanno i partiti nel frattempo? Oggi tocca al Giornale concentrarsi su Beppe Grillo, il suo Movimento 5 Stelle, che è il fenomeno sicuramente del momento, anche perché tutti i partiti guardano con doveroso terrore al guadagno di voti da parte di Beppe Grillo. Oggi Vittorio Feltri scrive: non è antipolitica, non sappiamo con esattezza quale sia lo scopo finale del comico, forse non lo sa neanche lui, da che esiste la democrazia, quando questa non funziona perché i partiti non sono più in contatto con la realtà, si aprono dei vuoti che vengono riempiti da chi è in grado di farlo. E scrive ancora Vittorio Feltri: regaliamo così un'altra freccia a Grillo, che scomparirà solo dopo che la politica avrà sconfitto l'antipolitica, come lavandosi la faccia e le mani sporche. Insomma, la tesi di Vittorio Feltri, non è l'unico a pensarla così, è che il successo di Beppe Grillo va di pari passo con il discredito totale che i partiti tradizionali hanno in questo momento. E infatti i partiti sono in movimento. Allora, sembra attivo Berlusconi, che sta, secondo Repubblica, secondo il Secolo XIX, cercando, in alcuni retroscena della politica lo raccontano, sta cercando di avvicinare Casini, e ha incaricato per questo compito Beppe Pisanu, uno che nel PDL ha mostrato di starci con diversi mal di pancia. Berlusconi affida a Pisanu la missione Casini, così titola Repubblica. Convincetelo a tornare, ma io non posso sparire. Questo è il succo del retroscena di Carmelo Lo Papa. Giovanni Palombo, invece, sul Secolo XIX, su questo tema è ancora più dettagliato, a dire: accontenterò Casini, avrebbe detto Berlusconi, pure se vuole Palazzo Chigi. Vuole fare il candidato premier? Non ci sono problemi, ma deve schierarsi. Insomma, un Berlusconi che avrebbe affidato questa missione a Beppe Pisanu, comunque a dei centristi del PDL vicini a Casini, per cercare di dire: riavvicinatelo e portatelo qui. Mentre il tema delle elezioni anticipate tiene ancora banco, elezioni anticipate a ottobre, pagina 11 del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, che è sempre ben informata su quello che succede all'interno del Partito Democratico, racconta, per fare la breve, la storia è questa che circola. Berlusconi, come del resto gli è capitato altre volte, non resiste alla tentazione di raccontare ai giornalisti quello che gli è stato riferito in colloqui riservati e confidenziali. E in uno di questi colloqui gli è stato riferito che l'ex presidente del Consiglio, D'Alema, e presidente del COPASIR, ritiene che l'esecutivo Monti abbia esaurito la sua missione e che perciò non c'è alcun motivo per andare oltre ottobre prossimo, perché il paese ha bisogno di un governo politico. Maria Teresa Meli poi racconta che il PD, tanto per cambiare, è diviso, cioè ci sono varie correnti di chi la pensa in un modo, di chi la pensa in un altro, ma in questo articolo dal titolo Il PD, D'Alema e la tentazione del voto, racconta Maria Teresa Meli, fra i democratici si sta facendo strada l'idea di elezioni a ottobre. Dunque, quando Berlusconi diceva il PD vuole votare a ottobre, evidentemente, secondo il Corriere della Sera, era informato anche perché questa rispecchia il sentimento di alcuni all'interno del Partito Democratico. Intanto ci sono le inchieste, la Vitola che parla al primo interrogatorio, i 5 milioni chiesto a Silvio Berlusconi era un debito di riconoscenza verso di me. Ci sono le inchieste a Bari, chiedono di processare Tarantini perché è accusato di portare le escort a Berlusconi in cambio di appalti. C'è poi la vicenda Formigoni. C'è uno straordinario articolo di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera che racconta il verbale di interrogatorio dei Daccò, colui che avrebbe pagato le vacanze a Formigoni, insomma tutta la polemica che ne consegue. Sentite Daccò come si descrive davanti ai magistrati. Allora, intanto dice: avrò preso 70 milioni dalla fondazione Maugeri, più o meno 70, 60, forse 56 di più, non lo so, penso più o meno così, 50, 60, 70 milioni prestategli, perché, ma io non sono un esperto di sanità, non sono un tecnico. E allora che sentite come io sono esperto nella frequentazione da 34 anni di tutti i meandri regionali per quel che riguarda la sanità. Eh sì, so cosa bisogna fare, quando intervenire e come intervenire. E qualche risultato l'ho portato a casa, altrimenti non mi avrebbero detto più di una volta: meno male che ci sei tu, se no saremmo saltati. E ancora Daccò: sono d'accordo che la cosa possa stupire, ma siamo tutti uomini, no? C'è chi è un ardito, c'è chi si vergogna, c'è chi pensa che se manda un altro è meglio a trattare, c'è chi non se la sente di farlo questo lavoro e sono venuti da me. Io faccio il lavoro, mi muovo, porto a casa i risultati e contratto le percentuali. Perché io lavoro molto sull'umano, sul rapporto diretto, e sono uno che a volte è quasi invadente. Ma che lavoro fa? Io non l'ho capito, ma mi muovo nei meandri, ecco. Questo è sul biglietto da visita, non so, meandratore, potrebbe mettere così, Daccò. Mi muovo nei meandri, so lavorare molto sull'umano. E i magistrati hanno voluto approfondire questo aspetto. Ma Daccò ha detto: tengo a ribadire, in vita mia non ho mai dato denaro a nessuno, se non purtroppo a una persona che non c'è più. E forse il riferimento è a Mario Cal, il suicida vice di Don Verzè, scrive il Corriere della Sera. Mentre Repubblica pubblica in esclusiva la foto di Formigoni, ritratto di spalla in spiaggia, ad Anguilla, in uno dei resort più di lusso al mondo. Ecco la vacanza ad Anguilla, una foto inchioda il governatore tra resort di lusso e aragoste. Continua questa, insomma, campagna della Repubblica a dire dove ha passato le vacanze, formigoni. Eccolo qua, ritratto ad Anguilla, e tra l'altro Paolo Berizzi, a pagina 11, Repubblica evidentemente o ha accesso agli atti giudiziari, cosa più probabile, o ha accesso alla carta di credito di Pierangelo Daccò, perché c'è tutto dettagliato: le spese di Pierangelo Daccò di quel capodanno 2008-2009, la comitiva parte da Parigi a Malpensa, volo per Formigoni Roberto 2790 euro, un altro per Formigoni, forse Carlo il fratello, 4088 euro, poi notte all'hotel Sheraton a Parigi 1853 euro, il 29 dicembre sbarcano ad Anguilla. Prima serata inaugurale si cena al Veia Restaurant Anguilla, 1581 dollari. Il 30 dicembre scorpacciata di aragoste al Blanchard's Restaurant, 1535 dollari. Il veglione il 31 al Cousinart Resort and Spa, 870 dollari. Il primo giorno del 2009 al Desco di Straw Hat, 1275 dollari, e così via, insomma tutte le spese, tutte spese di Daccò, scrive Repubblica. In cambio di cosa? Ecco, questa è la domanda che c'è sotto. Che dire, dobbiamo chiudere? Sì, 30 secondi. Trovate l'apertura del Messaggero dedicata a questo incidente che c'è stato di due Frecciarossa che sono scontrati a bassa velocità, fortunatamente all'ingresso della stazione Termini. Il boato, i vetri in frantumi, è stato un arrivo da incubo. Così a pagina 3. I dettagli sono lì, e che dire, devo chiudere? Sì, chiudiamo. Allora, dalle 8.20, Disperati Mai, l'iniziativa di Radio 24, lo speciale oggi con Oscar Giannino. Andremo avanti fino alle 10, giornale radio.